Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io ti agogno, oggi io ho bisogno di te, del tuo passato. Sai, ti rifarò bella come Carlotta, come Graziella, come tutte le donne del mio sogno, il mio sogno è nutrito d'abbandono, di rimpianto. Non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Beh, un bel disastro per chi ama solo le rose che non colse. Uno può passare la parte residua della propria vita a immaginare questo roseto che lui non ha avuto coraggio di attingere. Beh, questa è una visione antica, gozzanesca, il piccolo gozzano che va in un giardinetto, ricordo a braccio, e vede questa signora che con lui è gentile, però gli hanno detto non ti avvicinare con una cocotte, cioè a un maialone dei tempi. E capito, su questo ricordo lui inanella questa sorta di nostalgia. Ecco, come possiamo noi collocare nella contemporaneità questa sorta di affermazione che sta tanto di ammuffito, di vecchio, di triste, di stantio? Siamo abituati a vecchie zie zitelle, sempiterne vergini che dicevano: ah, io cosa avrei potuto avere, quanti uomini mi hanno corteggiato. E sempre questa frase: amo le rose che non colsi. Poi ce lo sentimmo dire nell'età adolescente da tutte quelle che non ce la davano. C'era sempre questa storia, ma perché? Perché amo le rose che non colsi. E sapevamo di essere messi nella lista delle rose che quella non avrebbe mai colto, con grande rimpianto. Oggi però le cose sono cambiate. Vi siete resi conto, questa è una trasmissione a taglio molto più femminile, ogni tanto devo farlo, che le rose che non avete colto ogni tanto le vedete come rifiorire nel vostro balconcino. Il balconcino è il vostro smartphone, è il vostro computer, è il vostro tablet, è lo strumento che avete come appendice emotiva sempre accanto, che ogni tanto pullula di ricordi del passato. O ve li andate a cercare o loro cercano voi. E ritrovate quel ragazzetto che avete soltanto palpeggiato, vi siete fatte palpeggiare tanti anni fa e oggi lo rivedete, che è un signore che ha un'esperienza di vita, uno spessore diverso, è gentile e vi viene il desiderio di accettare la sua amicizia. E poi cosa accade? Ma anche in tempi più recenti, ex fidanzati, ex amanti, ex mariti, improvvisamente in questa sorta di annullamento spazio-temporale che è il grande social networking, riappaiono. E improvvisamente viene la tentazione di cogliere le rose che non si erano colte prima, o si erano colte male, o si erano colte subito appoggiate lì, o si erano colte e non nemmeno aveva fatto in tempo a dargli un'annusatina. Antonio! Che ne dirmi? Mica t'ho chiamato io. Mi pareva di aver sentito Antonio. E l'hai sentito sì, t'ha chiamato quello. Quante valise? Allora lasciamo perdere. Luciana! Ciao. Permetti, te volevo presentare. Ah, se n'è andata. Con i tuoi amici? Sì, ma tanto loro stanno con loro. Come stai? E tu? Diciamo che nella tradizione era molto raro rimbattersi con qualcosa che apparteneva al nostro passato. Se accadeva erano grandi imbarazzi, si faceva finta di nulla, o erano di tuffi inarrestabili, era tutto lì da consumare in quell'attimo dell'incontro concreto. Cosa faccio? Saluto o non saluto? Mi fermo o non mi fermo? Faccio finta di niente o tiro avanti? Oppure mi faccio il sollevato, il distaccato e via dicendo? Oggi no, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Possiamo accettare l'amicizia o non accettarla? L'accettiamo e mandiamo soltanto una faccina sorridente. Stiamo ad ascoltare quello che ci dice e mandiamo ogni tanto qualche pensiero. Ci stiamo al gioco della seduzione, ci tiriamo indietro, possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo tutto il tempo a disposizione e il tempo in questo caso ci permette di fare cose inenarrabili. Che però è il problema di una psicologa, psicoterapeuta, che è Gianna Schelotto. Gianna, buongiorno. Buongiorno. Ti ho fatto un'introduzione che non so quanto ti farà piacere. Straordinaria, no? Straordinaria. Gianna Schelotto ha Testè sfornato il suo ultimo libro, proprio intitolato Le rose che non colsi, quando il passato è troppo presente, editore Mondadori, dove la Schedotto parla delle sue, penso, delle signore vanno da lei per essere confortate, per essere aiutate, è una terapeuta, che rimangono così tenacemente attaccate a una sorta di universo onirico che si sovrappone alla realtà, che è quello proprio degli antichi amori, che riaffiorano, riappaiono e vengono riesumati. È così, Gian? Sì, è così. È così, la cosa colpisce molto perché, voglio dire, Facebook è diventato uno strumento molto usato, molto amato e anche pieno di occasioni. Però quando si rispolverano questi vecchi amori, qualche volta nascono nuove speranze. Non è che trovare un vecchio amore debba essere sempre negativo, al contrario, ci si può rincontrare, si possono confrontare i cambiamenti che ci sono stati nell'uno e nell'altro e può nascere un sentimento nuovo. Il guaio è quando invece si pensa che questi vecchi amori debbano essere vissuti esattamente come a 18 anni e ci si aspettano le stesse emozioni dell'adolescenza. Allora questo è chiaramente una scommessa già votata al fallimento, perché nel frattempo il tempo si è modificato, non è come per la bella addormentata che quando è stata punta da fuso si è addormentata, ma con lei si è addormentato tutto il suo mondo. Si risvegliano tutti uguali, tutti giovani, tutti tranquilli. E quando si risvegliano e ripartono tutti dal punto in cui si erano addormentati. Invece qui, quando si risveglia questo amore, parte da un mondo completamente cambiato, parte non solo il mondo è cambiato, ma anche i protagonisti di questi amori sono cambiati. E allora è improbabile che l'amore possa essere ritrovato esattamente come quando lo si è lasciato. Allora, aspetta un attimo, 800 24 00 24, visto che abbiamo Gianna Schellotto che ci parlerà di come poi si articola nei vari singoli casi questa sorta di desiderio struggente di rimettere mano laddove si pensava che fosse chiusa una porta. Quante volte vi accade voi di avere la tentazione di riallacciare storie, legami, qualcosa che non c'è stato, qualcosa c'è stato moltissimo, semplicemente perché vedete lì con di una faccia sorridente o di un volto abbronzato o di una signora piacente nel vostro smartphone, dite andiamo a chiedere amicizia e vediamo quello che accade. Cosa accade esattamente? Vediamo di analizzare alcuni casi, Gianna, così entriamo proprio nel fatto concreto. Accade per esempio di appunto rivedere un volto della giovinezza, riconoscere un vecchio amore e immaginare che possa nascere qualcosa di diverso, ma la cosa che colpisce è che questi ricordi sono sempre un po' artefatti, cioè sono sempre velati di una colorazione che a suo tempo non avevano. Così accade che si rivede un vecchio amore, lo si incontra dopo una lunghissima corrispondenza e quindi dopo essersi scritte le cose più meravigliose, e quando lo si vede ci si ricorda che se quella rosa non l'avevamo colta era perché non ci andava di coglierla. Cioè questi amori, poi nel libro c'è la storia di una giovane donna che quest'uomo lo aveva lasciato perché a suo tempo l'annoiava, e 30 anni dopo lei ha completamente dimenticato. Ma perché noi abbiamo una memoria selettiva, vogliamo ricordarci solo le cose piacevoli? Una sorta di ottimismo nella memoria, ma soprattutto quando si è... Ma come mai a me accade il contrario? Per gli uomini è diverso. Gli uomini versano manate di calce sopra i ricordi del passato che non vogliono più assolutamente averne più a che fare. Ma non è una questione maschile o femminile, è una questione proprio di situazione di vita attuale. Cioè se tu hai una vita tranquilla, serena, che insomma che ti soddisfa, non hai bisogno di ripescare le cose del passato, o se le ripeschi con la fisionomia che avevano in realtà. Mentre perché attraverso lo stesso metodo, visto che di tecnologia un pochino me ne sono occupato, invece che andare a ripescare quelle del passato non vanno a buttare la lenza in un laghetto in cui non avevano mai pescato e cercano cose nuove? Ma è proprio questo, è la paura del futuro, e cioè l'idea che il passato, siccome è già sperimentato, non ti possa deludere più di tanto. Più di quanto ti ha già deluso, diciamo. Esatto, mentre il futuro ti spaventa. Soprattutto di questi tempi viviamo, voglio dire, evidentemente assorbiamo anche un atteggiamento negativo rispetto al futuro, perché, diciamo la verità, sono tempi nei quali il futuro è molto avaro di promesse. Allora questo porta le persone più sensibili, le persone anche più deboli, a ricacciarsi indietro come l'uccello stupido. Quindi c'è una stagnazione dei consumi amorosi praticamente e si ferma l'economia sensuale? Sì, certo. Certo, c'è questa e soprattutto c'è una rassicurazione se pensando a un'esperienza passata c'è l'idea che si pensi di poterla governare meglio. Ma non potrebbe accadere anche un'altra cosa, che la persona che nel passato era un farlocco o una farlocca, una squallida, con la maturità, con l'esperienza, si è diventata un'altra persona e valga la pena di cogliere quella rosa o di ricoglierla? Esattamente, ma questo appunto non è sempre così negativo. Il problema è l'atteggiamento col quale ci si pone di fronte a questo incontro. Se questo incontro è un incontro di tanti, tra i tanti possibili, che ha il vantaggio però di essere una persona che già si conosceva, con la quale si sono condivise delle emozioni, la scuola, i rapporti tra gli amici, e però nel frattempo lui è cresciuto ed è cresciuta anche lei, di fronte a queste nuove maturità può accadere che scatti un nuovo sentimento. Ma per molti esiste anche un rapporto che non si è consumato per una reticenza dovuta al tempo, alla circostanza, alla situazione. Dopo tanti anni dice, no, adesso ti prendo, questo accade nell'esperienza di tutti, ti prendo e ti colgo, ti prendo che quello che non c'è stato allora c'è adesso. Oddio, non è che rimanga sempre un gran sapore in bocca, però significa che quella crocetta andava messa. È brutto dirlo, ma molti lo pensano. Maurizio, da Genova. Buongiorno a tutti. Le donne nascoste, naturalmente, di questi argomenti non si parla pubblicamente. Abbassi la radio, Maurizio. Infatti ero curioso di sapere se la trasmissione di oggi era improntata sul punto di vista femminile oppure si poteva dare anche... Sul punto di vista di chi chiama. Mi piacciono le donne perché Gianna Schelotto è un'esperta in profondità femminili, ma però se parlano gli uomini va bene lo stesso. Le donne staranno a sentire. Il lato emozionale ed emotivo di una donna... diciamo, ha uno spettro molto più ampio di quello maschile, almeno per quanto riguarda il mio punto sì, di sono vista. Molto più complesse di noi, ma per fortuna, sennò ci saremmo già per annoiati. Per fortuna, infatti io sono innamoratissimo della figura femminile, no? In tutti i sensi, perché effettivamente riesce sempre comunque a sorprendersi, a darti, per chi come me che è sensibile, piace catturare quei lati. Vada al punto, vada al punto. Lei va a razzolare su Facebook le vecchie amiche quando si trova un po' sottodimensionato. Io penso di essere una specie di mosca bianca in questo senso, perché io non sono su Facebook, non sono su Facebook. È rimorchio per la strada, vabbè, rimorchio nei locali, cioè sarà Rodolfo Valentino, beato lei. Che è molto bello invece, a mio avviso, non andare a spoverare, si rimane delusi dal passato. Vabbè, lei ho capito, lei è un gaudente puttaniere, c'ha benissimo modo di attingere dove vuole, dice, se ne ride di queste povere signore che nella tristezza della loro vita coniugale sempre uguale vanno a ricercare il compagnuccio di scuola di tanti tempi. Gianna Schelotto, no niente, diamo le informazioni del traffico, se no non facciamo in tempo, poi ti faccio una domanda. Melog, cronache meridiane. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Questa non me l'aspettavo, mi porta una sfiga a me questa canzone che... Non vi racconto nemmeno perché, per come... Comunque, va bene, Edith Piaf non rimpiange nulla, io rimpiango tantissime cose, altro che rose, tulipani, margherite, di tutti i tipi, girasoli, sai quante non ne ho colto? Sono più quelle che non ho colto che quelle che ho colto. Ma stiamo parlando con Gianna Schelotto del suo ultimo libro, Le rose che non colsi, libro che analizza una tendenza probabilmente molto più femminile, visto che Gianna Schelotto si occupa principalmente di donne come psicologa, di andare a ripescare i vecchi amori del passato, le passioni, gli amici, le simpatie. Perché? Perché di fronte alla paura di investire nel futuro, avendo a disposizione degli strumenti formidabili che ti permettono di metterti in gioco istantaneamente un'infinità di persone, si va a rivedere le carte che magari ci si è dimenticati come ci si è giocate nel passato. Però Gianna, volevo domandarti un'altra cosa. L'esempio opposto è quello che mi riferiscono molte mie amiche. Dice, guarda, con il fatto che oggi tutti siamo in tutti i social network, ci capita ogni tanto del della, diciamo, cosiddetta ripresina. È l'uomo con cui sei stata, hai avuto una relazione, un amore, una storia, di qualunque tipo, che ogni tanto capisci che fa periodicamente il giro della sua agendina. Quando si trova un po' sprovvisto, un po' solo, o ha preso qualche altra bastonata, rifà il giro di tutte le fidanzate e manda la faccina, il sorrisino, come stai, sarebbe bello vederci. E una capisce benissimo che in realtà è un momento che si trova in secca e disperatamente vuole riaffermare il fatto che lui è un uomo attivo in tutti i sensi e ricerca le vecchie fidanzate. È un po' diverso questo tipo di atteggiamento, il ripescaggio, la ripresina? Beh sì, perché questo è proprio, come dire, un fatto funzionale. Cioè, sono in crisi, ho bisogno di un antidoto e quindi uso Facebook piuttosto che una... Vado sul sicuro, con chi già sono stato, sperando che magari la trovi in un momento di nostalgia, ecco. O di disponibilità. Questa è, come dire, una cosa diversa, mentre invece il, diciamo, il tema del libro è soprattutto l'idea che hanno molte persone, che il passato comunque sarebbe stato migliore del presente. Cioè, loro hanno la sensazione che la vita che stanno vivendo è solo la brutta copia. Però scusami, Gianna, se la tua amica che ti confida queste cose si trova in questa fase di andare a ripescare il passato con fare nostalgico, romantico, pensando che sia migliore il presente, e incappa nell'ex amico che invece è in piena caccia di ripresina, è un cortocircuito brutto. Sì, anche perché lei non si rende conto che l'amico è a caccia. Lei si illude, perché è di questo che va in cerca di illusione, lei si illude che l'amico sia pronto a riprendere con lei quel filo che si era interrotto tanti anni fa. È in questo che consiste. In realtà, se quel filo non si era unito tanti anni fa, è perché probabilmente lei aveva già capito che tipo di persona era. E la cosa non era andata per questo motivo, ma tutta questa parte, diciamo, razionale viene accantonata, viene dimenticata e si riparte con l'idea che si trattasse di un bel sogno, di una bella cosa che aspetta solo di essere riaccesa. Claudia, buongiorno. Claudia. Sì, buongiorno. Ascolti, niente, invece io... Lei va a pesca a strascico. No, non vado a pesca. Io ho 60 anni, vabbè. Sono vedova da un po' di tempo. Però anche quando viveva ancora mio marito, cioè io le cose di cui ho passato, momenti belli, amicizie belle, cose anche, io penso che sia utile anche andare, utile, non so, non è la parola giusta, utile. Piacevole. Però fa bene andare a ripescare nel passato, anche perché ci sono state, se le cose sono state valide, in più se le cose si sono sempre tenute in vita, cioè perché le cose del passato che sono lasciate sono state usate, poi buttate. Sì, ma uno mica può tenere in vita tutti gli amori del passato, è una fatica enorme. Però ci sono delle storie belle o delle amicizie belle di cui si mantiene... Sì, ma qua non è che si tratta di andare a prendere un caffè assieme, il discorso è chiaro, si tratta di riaprire un discorso amoroso, una relazione sessuale, fisica. Sì, io sono d'accordo. Perfetto, cioè... Lei comunque lo fa nella vita, lei, diciamo, è un'attività corroborante, pur essendo sposata, ogni tanto rincappava nel vecchio amore e si lasciava andare. Sì, sicuramente sì. E per me è stato bello. È una cosa stupenda e poi le dirò, non è mai stato, cose adesso non tantissime, però quelle 3-4 storie interessantissime, sì, io sinceramente non ci vedo nulla di strano e poi le dirò che quando uno sarà anziano avrà questi bei ricordi da ricordare. Ecco, ma lei perché ha riaperto il file? Perché non era andata fino in fondo? Non era rimasto un po' di qualcosa da consumare? Oppure perché le era piaciuta? Dice, guarda, perché le era piaciuto. Le era piaciuta, perfetto. Mi sembra una... Questa invece, Gianna Schelotto, è una condizione, diciamo, sana. È una signora che ogni tanto, se gli capita, gli rida sotto un po' con persone con cui è stata, perché gli è piaciuto. Non è patologico. Si tratta di rose non colte, si tratta di rose eternamente disponibili. L'ha sempre innaffiata per tutta la vita, ogni tanto gli danno annusata. Esattamente, non c'è una questione di nostalgia o di rimpianto, c'è invece il gusto come dire, di mantenere in vita, infatti la signora dice se non si è perso il contatto non è una cosa dimenticata e ritrovata, è una cosa che lei ha coltivato per tutto il tempo. È l'amico delle vacanze, l'amico della trasferta, quello che ogni tanto sai che lì... a Natale Pasqua, Natale insomma, Pasqua. Una cosa così. Sai che c'è, se vuoi puoi usufruirne. Davide, buongiorno. Buongiorno, salve. Ma io sono stato colpito da quest'ultima chiamata, perché anche a me è capitato qualche anno fa di rincontrare una vecchia fidanzata di gioventù. E com'è andata? Ma è stato piacevole, però anche lì poi c'è stato un ritorno di fiamma, diciamo, in qualche modo, però anche ti dà anche la misura dei tuoi fallimenti attuali, perché non è possibile poi vivere vite parallele. Beh, oddio, non meglio. È possibile, lo fanno tanti. No, beh, certo, no, meglio è possibile, però è difficile, perché comunque siamo prigionieri di situazioni. Però secondo me, io sentivo prima quello che diceva la signora Schelotto. Come dice Barbara Alberti, l'amore per i coraggiosi, per gli altri c'è la coppia. No, è vero. Scegli. Ma infatti è vero, ma come c'era prima la signora Scarotta, c'è che in realtà poi il tempo cambia, non è la bella addormentata, però secondo me invece no, secondo me è possibile sempre, cioè in realtà poi, anche perché... Comunque per lei è stato faticoso, è stato più che altro una grande fatica, ecco, dover riaprire questi file del passato. Certo, però secondo me... anche perché magari ti dà la possibilità di recuperare anche... Ma secondo me, Gianna Schelotto, dipende dal momento, allo stato d'animo, dalla situazione in cui uno si trova nel momento del rincontro. Per qualcuno può essere del tutto indifferente, per altri può essere finalmente quello spiraglio di luce in un momento molto cupo che per forza ti ci dirigi contro, no? Sì, cioè, si tratta davvero di... un conto è ritrovare un vecchio amore quando si sta bene, quando con l'amore attuale si vive bene, quando non si è infelici, quando il matrimonio non è troppo monotono, allora si guarda questo vecchio amore con nostalgia, con leggerezza, impianto, sì. E magari con leggerezza. Se invece all'improvviso questa cosa finisce col diventare un'alternativa alla depressione o comunque alla noia o comunque all'idea di aver sprecato la vita, allora diventa un po' più rischioso. Ecco, se uno volesse dare un consiglio, però guardate avanti, lo strumento ve lo permette, lasciate perdere le cose passate. Grazie Gianna Schelotto, a domani.